Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Giugno e luglio del 1857. Tenta di sollevare il popolo contro i Borbone, ma fallisce. Il capo della rivolta, Pisacane, si toglie la vita. A Napoli nuova, stretta antilaica, censura religiosa su ogni pubblicazione. Londra, più facile ottenere il divorzio per le donne. Parte una campagna per i diritti del gentilsesso. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura, la rivolta fallita nel Regno di Napoli. Il sacrificio di Pisacane ha commosso i patrioti italiani. L'inizio della storia di Carlo Pisacane è come quello di tanti altri figli della nobiltà decaduta napoletana. Primogenito del duca di San Giovanni, la sua carriera militare iniziò che era appena dodicenne. Poi, tra vagli di una vita avventurosa, dalla fuga con una donna sposata e madre di tre figli, all'arruolamento nella legione straniera, fino alla partecipazione alle battaglie del 1848 e del 1849. Oggi chi crede nella causa italiana lo piange come un martire. Perché Pisacane ha creduto possibile una ribellione nelle sue terre, ossia il Regno delle Due Sicilie, e si è imbarcato a Genova per una spedizione rivelatasi poi fallimentare. Tappa a Ponza, dove con i congiurati ha liberato 300 detenuti che sono andati a ingrossare le fila della rivolta. Poi l'approdo a Sapri, in Campania. Sperava di trovare l'appoggio dei braccianti, ma molti di loro erano fuori da quelle zone per il raccolto. Altri sono rimasti impressionati nel vedere che con lui c'erano galeotti e banditi. Altri ancora hanno appoggiato il tentativo di rivolta, ma senza grande entusiasmo. I soldati borbonici hanno sconfitto il gruppo una prima volta a Padula, uccidendo 50 ribelli e catturandone un numero triplo. Pisacane è riuscito a fuggire insieme ad alcuni fedelissimi, ma a Sanza il parroco ha fatto suonare le campane nella convinzione che stessero arrivando i briganti. La disfatta è stata completa e Pisacane, ferito nel corpo e nell'orgoglio, si è tolto la vita con un colpo di pistola. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Intanto, proprio nel Regno delle Due Sicilie, il re Ferdinando II ha disposto che i matrimoni in chiesa siano validi anche civilmente, che le guardie del regno possano essere chiamate dai tribunali ecclesiastici a far eseguire le sentenze e infine che ogni pubblicazione debba sottostare alla censura religiosa. Il Regno Unito intanto fa segnare avanzamenti dal lato dei diritti civili. È passata in Parlamento una legge che rende più semplice per le donne ottenere il divorzio. Viene anche stabilito che gli uomini debbano occuparsi del mantenimento anche delle ex mogli. Passi avanti, stando al neonato Movimento per i diritti delle donne, raccolto intorno alla rivista English Woman's Review, che si sta battendo con forza anche per il contenimento del fenomeno della prostituzione. Le case di tolleranza a Londra sono 6.000, una ogni 60 abitazioni, e non è infrequente che tra le prostitute vi siano ragazzine di 10 o 11 anni. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Visitate il nostro blog, la pagina Facebook, scriveteci a gazzettino@radio24.it, scaricate il nostro quotidiano, il nostro foglio quotidiano. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.